Capitolo 45. Alcione e Ceice. Alcione era la figlia di Egiale e di Eolo, custode dei venti. Essa sposò Ceice di Trachine, figlio della stella del mattino, e vissero così felici che Alcione osò assumere il nome di Era e chiamò Zeus il marito. Ciò suscitò l'ira di Zeus e di Era Olimpi, e si scagliarono una folgore sulla nave di Ceice, che era salpato per consultare un oracolo, e Ceice morì annegato. La sua ombra apparve ad Alcione che, seppure controvoglia, era rimasta a Trachine. Sopraffatta dal dolore, l'infelice si gettò in mare. Alcuni dei pietosi li trasformarono ambedue in tordi marini. Ora accade che ogni inverno la femmina del tordo marino trasporta con alte strida il suo morto compagno fino al luogo della sepoltura e poi, costruito un nido compatto con gli aculei del riccio, lo lancia in mare, vi depone le uova e le cova durante i giorni di Alcione, cioè i 7 che precedono e i 7 che seguono il solstizio d'inverno. In quel periodo Eolo vieta ai venti di spazzare il mare. Altri dicono che Ceice fu trasformato in un gabbiano. La leggenda del nido dell'alcione o tordo marino, che non ha precedenti nella storia naturale, poiché l'alcione non si costruisce un nido ma depone le uova in buche presso la riva, può riferirsi soltanto alla nascita del nuovo re sacro al solstizio d'inverno. Nascita che avviene dopo che la regina che rappresenta sua madre, la dea Luna, ha trasportato il cadavere del vecchio re all'isola funebre. Ma poiché il solstizio d'inverno non coincide sempre con la medesima fase lunare, ogni anno deve essere inteso come ogni grande annata di 100 lunazioni, nell'ultima delle quali il ciclo lunare coincideva grosso modo con quello solare e scadeva il regno del divino Paredro. Omero mette in rapporto l'alcione con Alcione, un appellativo di Cleopatra, moglie di Meleagro, e con una figlia di Eolo, custode dei venti. Alcion non può dunque significare Alcion, cane marino, come generalmente si suppone, ma deve corrispondere a Alcione, la regina che tiene lontano il male. Questa ipotesi è confermata dal mito di Alcione e Ceice e dalla punizione loro inflitta da Zeus e da Era. Per la parte della leggenda che riguarda il gabbiano non occorrono spiegazioni, benché questo uccello che lancia un grido lamentoso fosse sacro alla dea del mare Afrodite o Leucotea, come l'alcione di Cipro. Pare che verso la fine del secondo millennio prima di Cristo i navigatori Eoli, che avevano accondisceso a onorare come loro divina antenata e protettrice la dea preellenica della Luna, siano divenuti sudditi degli Achei devoti a Zeus e siano stati così costretti ad accettare la religione olimpica. Il nome Zeus, che secondo Giovanni Zetze era stato fino a quel tempo un appellativo dei Reguli, fu riservato al solo padre celeste. Ma in Creta sopravvisse fino all'epoca cristiana l'antica tradizione misterica di uno Zeus che nasceva e moriva ogni anno, e si mostravano tombe di Zeus a Cnosso, sul monte Ida e sul monte Ditte, cioè nei diversi centri di culto. Callimaco ne rimase scandalizzato, e nel suo inno a Zeus scrisse: «I cretesi sono sempre bugiardi, hanno persino innalzato la tua tomba, o Signore, ma tu non sei morto, perché vivi in eterno». Il passo è citato nel Tito primo 12. Plinio, che descrive dettagliatamente il mitico nido dell'alcione, evidentemente si tratta dello zoofito chiamato Alcioneum da Linneo, dice che l'alcione si vede durante i due solstizi al tramonto delle Pleiadi. Ciò prova che questo uccello era in origine un'epifania della dea Luna, la quale veniva rappresentata alternativamente come dea della vita nella morte al solstizio d'inverno e della morte nella vita al solstizio d'estate. E nel corso di ogni grande anno, all'inizio di novembre, quando le Pleiadi tramontano, annunciava al re sacro l'approssimarsi della sua morte rituale. Un'altra alcione, figlia di Pleiona, la navigante e di Atlante, era a capo delle 7 Pleiadi. Col sorgere delle Pleiadi a maggio iniziava il periodo dell'anno propizio alla navigazione, che si chiudeva al loro tramonto, quando, come nota Plinio in un passo che riguarda l'alcione, soffia un gelido vento del nord. Le circostanze in cui si verificò la morte di Ceice dimostrano che gli Eoli, famosi navigatori, onoravano la dea come alcione perché li teneva lontani dalle secche e li proteggeva dai venti contrari. La folgore di Zeus che si abbatté su una nave di Ceice rappresenta una sfida al potere della dea. Tuttavia si continuò ad attribuire all'alcione la magica facoltà di placare le tempeste e il suo corpo impagliato era usato come talismano contro la folgore di Zeus, forse in base alla credenza che la folgore non cade mai due volte nello stesso punto. Il Mediterraneo è quasi sempre calmo durante il solstizio d'inverno.